your mind. È dove si focalizza la mente. And the second thing is a sense of a care. E la seconda è un senso di aver cura. So you have to give yourself a good reason for what you're doing, eh? E quindi vi dovete dare una buona ragione per quello che state facendo. So if you're doing something for yourself, for your own benefit and the benefit of others, se fate qualcosa per voi stessi e per il beneficio degli altri, then this gives something for the heart to be engaged in. E questo dà qualcosa, un motivo al cuore per essere coinvolto in questo. And when we're doing something, we do it as excellently as we can. E quando facciamo qualcosa, lo facciamo nel modo migliore possibile. So excellence is not perfection. Nel modo eccellente, eccellente non è perfetto. No, perfection. The idea of perfection always comes from some ideal we have in the head. L'idea di perfezione viene da qualche ideale che abbiamo nella testa. By the very fact it's an ideal, it cannot be attained. È proprio perché un ideale non può essere conseguito. Ah. So, nor is it a sort of, we're not concerned with how other people are performing. E non bisogna preoccuparsi di quello che fanno, di come lo fanno le altre persone. And this becomes a form of competition. Perché potrebbe diventare una forma di competizione. A sense of elitism. I'm better than. E quindi il pensiero io sono meglio degli altri. Or worse, eh? Or worse, peggio. O peggio. So, when we are doing something with excellence, we're doing it as best as we can. E quindi quando facciamo qualcosa con eccellenza, lo facciamo nel modo migliore possibile. What else can you do? E che altro posso fare? See? So if your attention is on what you're doing, se l'attenzione è su quello che si fa, and you're doing it carefully, gently, kindly, e lo facciamo con cura, gentilmente e con amore, then you cannot ask any more of yourself. Non vi potete chiedere di più. No matter how other people might be disappointed in what you're doing. E non c'è problema se le persone non sono contente di quello che fate. So remember that when you are working, when we're meditating, we always have, generally speaking, a very strong sense of a self. Quando si fa meditazione, parlando in generale, c'è sempre un forte senso del sé. There's always the sense of the observer or the feeler. Or the one who's experiencing something. C'è sempre il senso dell'osservatore, di colui che fa un'esperienza, di quello che osserva qualcosa. So we sometimes make the mistake that in ordinary daily life when I'm working, I have to be aware of myself. E quindi se faccio degli sbagli nella vita di tutti i giorni mentre sto lavorando, devo essere sempre cosciente di me stesso. No, self-awareness arises naturally. La coscienza di sé insorge naturalmente. But remember, our purpose is to be involved, to be absorbed in what we're doing. Il nostro scopo, ricordate, è quello di essere coinvolti e assorbiti in quello che facciamo. But remember, the attitude with which you go into something is the one you're going to develop. E ricordate, l'attitudine con cui si entra nel fare qualcosa, that's the one you will develop. È quella da sviluppare. So if you go into something with a sense of rush or anxiety, you'll end up with more rush and anxiety. Quindi se entrate in un lavoro con un senso di fretta o ansia, si svilupperà più fretta ed ansia. So that's when you have to teach yourself to stop, you see. E qui è dove vi dovete insegnare a fermarvi. And then to feel the rush, feel the anxiety. E sentire la fretta e l'ansia. And wait for it to calm a little. E aspettare che si calmi un po'. And then give yourself a good reason for doing something. E poi vi date una buona ragione per fare qualcosa. So in this way, old bad habits become undermined. E in questo modo le cattive abitudini si undermined, diventano meno importanti. Become undermined, and good habits are reinforced. E invece le buone abitudini sono rinforzate. So now, when we come to eating, this is a real opportunity to form a beneficial attitude towards food. When we come to eating. Sì, quando si va a mangiare, questa è un'opportunità per sviluppare un'attitudine benefica. Now, we won't stop indulging ourselves, we won't stop being greedy, unless we see the problems that arise from it. We won't stop being greedy. We won't stop being greedy. Noi non smetteremo di essere avidi fino a che non vedremo il vero problema che sta sotto alla verità. Sì. Remember, there are consequences. Ci sono delle conseguenze. So when we become dependent on something for our happiness, quando noi diventiamo dipendenti da qualcosa per la nostra felicità, So when we don't get it, we feel frustrated. E quindi quando noi non otteniamo questa cosa, diventiamo frustrati. If we lose it, we suffer grief. E se noi perdiamo questa cosa, abbiamo una sofferenza. When we have something, there is always a sense of anxiety about the possibility of losing it. E quando invece abbiamo questa cosa, c'è sempre un senso di ansia sulla possibilità di perderla. Just think how you feel when you forget where you've put your smartphone. Pensate a come vi sentite quando vi dimenticate dove avete infilato lo smartphone. So panic. And then of course there's the obsessive nature of our desire. E quindi naturalmente anche la natura ossessiva dei nostri desideri. And finally boredom, Annoia. Alla fine c'è la noia. Because what happens with pleasure is it loses its juice. È perché quello che succede con il piacere è che perde sempre qualcosa. So for instance, when you have your breakfast, the first bite will be delightful. Ad esempio quando siamo a colazione, il primo morso è sempre delizioso. But as you go through the breakfast, the delight of the original taste begins to disappear. E mentre si va avanti nella colazione, la delizia del sapore originale che abbiamo sentito all'inizio comincia a perdere forza. Sì. So unless we recognize these sufferings are a consequence of greed, we won't stop it. E noi non potremo cessare a meno che non capiamo che questo viene dall'avidità. So when you approach the food, you see, get in touch with your body. Quindi quando ci si avvicina al cibo bisogna tenersi in contatto col proprio corpo. Ah, and remind yourself some of it is just natural appetite. E ricordarsi che una parte di questo è appetito naturale. And the other part is seeking happiness. Seeking happiness in. E invece l'altra parte è cercare la felicità. Ah, so take what you need. Quindi prendete ciò di cui avete bisogno. Remind yourself the food is for nourishing the body. E ricordatevi che il cibo è per nutrire il corpo. Ah, make the intention to eat. Fate l'intenzione di mangiare. Intending to eat and then begin the process, you see. Intenzione di mangiare e poi cominciate il processo. And then remember, put the spoon down. E ricordate di appoggiare il cucchiaio sul tavolo. Put it down, see? And then chew. E dopo masticate. Ah, and then swallow. E poi inghiottite. And then wait for the desire. E poi aspettate che arrivi il desiderio. Now really experience this process of desiring. E quindi veramente fate esperienza del processo del desiderio, del desiderare. See, what is a desire? Che cos'è un desiderio? Is it the same as is it the same as an emotion? È la stessa cosa di un'emozione. Or is it or is it something which is arising out of an emotion? O è qualcosa che insorge da un'emozione? How do you experience the feeling of a desire? Come si fa l'esperienza della sensazione del desiderio? What happens when you just feel the desire and don't do anything? Cosa succede quando si sente il desiderio e non si fa niente? So this whole process is one to explore. E tutto questo processo va esplorato. Remember that this wrong desire, according to the Buddha, is the actual psychological cause for our suffering. E ricordate che secondo il Buddha il desiderio sbagliato è la causa psicologica della nostra sofferenza. Ah, so in order, what do we have to do in order to undermine desire? Quindi che cosa dobbiamo fare per far diminuire questo desiderio? Ah, you see? So, what we discover is, you don't have to do anything. E quello che scopriamo è che non dobbiamo fare niente. Ah, all you have to do is feel it. Dobbiamo solo sentirlo. And wait for it to exhaust itself. E aspettare che si... Exhaust. Che si esaurisca da solo. So, there's nothing difficult about the practice. Quindi non c'è niente di difficile riguardo alla pratica. It's just hard. È solamente dura. That's all. But we have to train ourselves to let go, see, not to indulge desires that we see are not beneficial for us. Noi dobbiamo solo abituarci a lasciare andare quei desideri che non sono benefici per noi. Now, it's so important to wait until the desire has completely gone. È molto importante aspettare finché il desiderio se n'è completamente andato. Because when a desire completely goes, what you'll experience is a sense of relief and a sense of liberation from that desire. Perché quando un desiderio se n'è completamente andato, quello che si prova è un senso di sollievo e di liberazione di questo desiderio. The more we experience that, the more we'll want to get rid of these wrong desires. E più si fa esperienza di questo, e più si ha la possibilità di liberarsi dei desideri sbagliati. Unless we experience this, the practice becomes just one of suffering. E se noi non facciamo questa esperienza, la pratica diventa solo più sofferenza. Ah, so when you finish your breakfast, you say, just stop for a minute. Quindi quando alla fine della colazione, fermiamoci un attimo. Now maybe there's just a little bit more, there's a desire to have some more food. E forse c'è ancora un piccolo desiderio di avere più cibo. Now, if you can just stay with that, you see, and wait for it to completely end. E se si può stare con quel desiderio e aspettare che finisca completamente. Ah, then just see what you experience at the end of that. E vedete quello che si prova alla fine di questo. Ah. Then don't forget to say to bring up a certain gratitude for the food that we've received. E non scordiamoci anche di portare una certa gratitudine per il cibo che abbiamo ricevuto. And then addio. E poi addio. That's it, finished. See? Finito. And after you said that, just to be aware of what comes up immediately after you recognize that the meal is finished. Siate coscienti di quello che viene fuori subito dopo che abbiamo capito che il pasto è veramente finito. So that's the eating. Finally, there is sometimes just a little time before the work period. E c'è, per finire, c'è sempre un po' di tempo prima tra il cibo e l'inizio del periodo di lavoro. There are so many times during the day when we are waiting. Ci sono molti momenti durante la giornata mentre che noi stiamo aspettando. You might wake up early and you're waiting for the alarm clock to go. E può darsi che ci si sveglia presto e si sta aspettando che suoni la sveglia. You're waiting for your partner or your children to get ready in order for you to go. Oppure si sta aspettando che il proprio partner o i propri figli siano pronti per uscire. You're waiting for the bus or the train. O si aspetta l'autobus o il treno. You're waiting for a friend to come. O un amico che deve arrivare. You're waiting for a telephone call. O per una telefonata che deve arrivare. So, what do we do when we're waiting? E quindi cosa facciamo mentre stiamo aspettando? Most of us, I think, just let the mind wander, get agitated, restless. E maggior parte delle volte si lascia che la mente vada in giro e si diventa agitati, si diventa irrequieti. For us, this is an opportunity to relax, to be at ease. E può essere invece un'opportunità per rilassarsi ed essere tranquilli. The sense of anxiety, the sense of rush will not make the bus come any quicker. Il senso di fretta o di ansia non farà arrivare prima l'autobus. So one relaxes, one says, well, it's going to take time. Bene, uno si rilassa e dice, ci vuole del tempo. And then you have to put something beautiful in your mind. E poi bisogna mettere qualcosa di bello dentro la mente. And one of the things you can always do is practice this metta. E quindi una cosa che si può sempre fare è praticare metta. If you're in a bus queue, you see, waiting for the bus. E se siamo in coda per l'autobus. So you can offer your goodwill to all these miserable people. Potete sempre offrire la vostra benevolenza a tutte queste persone miserevoli. Who are complaining and complaining about public transport. E che stanno continuamente lamentandosi dei trasporti pubblici. So remember these three things, yeah? Use the eating. Use eating in order to investigate this process of desiring. Quindi ricordate queste tre cose. Usare il mangiare per investigare il processo del desiderio. That whenever during the day there's a sense of waiting, give yourself something beautiful to develop within yourself. E tutte le volte che c'è questa sensazione di dover aspettare qualcosa, datevi qualcosa di bello alla mente. And in when we're working this work period, but in ordinary daily life, to make sure that you know you're putting your attention and your heart into what you're doing. E quando si sta lavorando nel periodo di lavoro, ricordate di portare la vostra attenzione e il vostro cuore in quello che state facendo. Ah, so now there's maybe 7 or 8 minutes before breakfast. Ci sono ancora 7-8 minuti prima della colazione. So what are you gonna do? E quindi cosa volete fare? Buon appetito!